paesaggi da ascoltare, voci, suoni e storie dalle terre trentine. Un programma a cura di Stefano Uccia, con la collaborazione di Sara Maino. Gentili ascoltatrici ed ascoltatori, buon pomeriggio. Anche oggi sarò la vostra guida nei paesaggi di storie e di suoni dell'Alta Vallagarina. Da qualche anno, con il progetto Portobeseno, dal cui archivio sono tratti i file sonori che ascolterete, raccogliamo le storie degli anziani con l'aiuto delle bambine e dei bambini delle scuole primarie di Volano, Cagliano e Besenello. Questo tipo di attività rientra nei progetti laboratoriali Narrare il territorio, Chiavi di memoria e Le case delle storie, che curiamo da diversi anni nelle scuole lagarine. Durante le uscite didattiche guidiamo gli allievi alla scoperta del paese. I bambini imparano a conoscere il luogo dove vivono attraverso le storie narrate delle persone anziane. Prima di incontrare gli anziani, invitiamo gli allievi a compiere una particolare esperienza, la passeggiata sonora. È una semplice passeggiata, compiuta con le orecchie. In questo modo impariamo a conoscere ed apprezzare i suoni che ci circondano. L'esperienza di ascolto dei paesaggi sonori è uno strumento per risvegliare l'attenzione, la concentrazione dei bambini, le loro emozioni e l'immaginazione. Si tratta in sostanza di imparare a percepire la realtà dentro cui siamo immersi e verso cui possiamo tutti diventare più responsabili. Non abbiamo sentito tanto casino, rumore. C'era più tranquillità? Un gallo, l'acqua, una fontana e un elicottero che passava. Dei bambini che ridevano. Delle persone che muovevano i piedi e si sentiva dunque il rumore dei sassi. Il vento. Tutta la natura. Più tranquilli? Perché abbiamo sentito dei suoni. Sono suoni un po', come si dice, tranquilli, liberi, invece che dalla città, che è diversa, che ci sono il rumore di tante macchine. Avete ascoltato una tipica passeggiata sonora con gli allievi di Volano. Ne abbiamo svolta una anche lo scorso giugno al Castello di Beseno, durante il Festival Portobeseno, nell'ambito dell'iniziativa nazionale Walking on Sunshine, promossa da FKL Italia. Il progetto Portobeseno fa infatti parte del Forum Europeo sul Paesaggio Sonoro, un'associazione formata da partner svizzeri, austriaci, tedeschi e italiani, volta alla promozione e alla sensibilizzazione di tematiche collegate all'ecologia acustica, all'ascolto e al paesaggio sonoro. A Oberhausen, in Germania, nell'ambito del 6° Forum Internazionale Klanglandschaft, abbiamo presentato una esperienza di ascolto del paesaggio inserita in una mappa sonora realizzata con gli studenti del liceo artistico Fortunato De Pero di Rovereto. La teorizzazione del paesaggio sonoro è stata sviluppata dal World Soundscape Project, un progetto di ricerca condotto negli anni 70 dal compositore e ricercatore Raymond Murray Schaeffer alla Simon Fraser University di Vancouver. Le ricerche sui paesaggi sonori cercano di indagare il rapporto esistente tra gli esseri umani e i suoni dell'ambiente e che cosa accade quando questi suoni cambiano. Ma torniamo ai laboratori di Portobeseno. Buongiorno a tutti, ciao! Buongiorno, prego pure, venite. Lo scorso anno, con gli allievi della classe quinta di Volano, dopo aver compiuto una passeggiata sonora che ci ha rilassato e spalancato le orecchie, abbiamo intervistato il signor Valentino Vicentini. Ascoltiamo ora la sua narrazione, che è ambientata nella Seconda Guerra Mondiale. Chi indovina quanti anni ho? 89. Da 15 anni sono andato là ai bossoli, i banchi da fretta, per un periodo. Dopo da lì, siccome noi si faceva i contadini, non c'era il lavoro da mettersi a lavare la campagna. Allora i miei genitori mi hanno consigliato di imparare un'arte. E l'arte, quale arte? Mi piaceva il meccanico, per esempio. Ma il meccanico, no. Mio padre è andato a Cagliano, dove c'era un bravissimo artigiano. E lì ho passato 3 anni di apprendistato. Era un ramiere latoniere. Si lavorava dietro come latonieri e come ramieri. È venuto il momento che dopo 3 anni ho dovuto andare militare e lì purtroppo il primo tempo l'ho fatto, mi hanno mandato a Pola. Poi da Pola è arrivata una richiesta, una certa posta militare 23 che si usava allora come militari, che sarebbe stata Atene, in Grecia. Se qualcuno parla greco, parlo anche in greco. Disgraziatamente hanno sbagliato le carte, eccetera, eccetera, invece che andare direttamente là, mi hanno mandato nel Montenegro. È andato via 1 mese e sono arrivato ad Atene. E sono restato lì fino all'8 settembre. Siccome eravamo amici tedeschi e italiani, prima, l'8 settembre, allora siamo diventati dei nemici e i tedeschi ci hanno prelevato come prigionieri. Un ricordo questo, ricordo dei prigionieri quando ci hanno presi, ci hanno portati nei campi di concentramento in Polonia, dall'8 settembre. E che è arrivato là, ci hanno imbarcati dentro per i treni e quindi in 15 giorni di viaggio su treni merci, eravamo dentro in 15, 17 anche per vagone, da Atene siamo partiti e ci hanno portati direttamente in Lituania. Lì c'erano stati lì in un campo di smistamento per 15 giorni, poi da lì sceglievano 500, perché eravamo a circa 10.000 di là, sceglievano magari 1.000 da una parte, 500 dall'altra e via. E io nel mio posto, quella mattina là, hanno scelto 500 persone, ci hanno portati in Polonia e lì siamo restati nei lager per tutto il tempo, insomma, a fine guerra. Andavate a lavorare comunque? 12 ore al giorno, 12 ore al giorno, colazione, niente, non erano mia, i panini, le brioche, le roba, allora, no? E lì si andava a lavorare quelle ore là così. Colazione niente, da pranzo era una brodaglia di carote, di patate, di quelle cose là, la sera ide, e siamo andati così fino alla fine, insomma. Ai 17 di gennaio c'è stata l'avanzata russa e lì ci hanno presi, insomma, loro per le mani. Ma quel giorno, la guarda, per 3 giorni le sta un disastro, insomma, ecco, fra paura, fra bombardamento, fra carri armati che giravano, è stato un giorno tragico, contento anche per noi, contenti per noi anche, perché eravamo liberati, però non si poteva dire è finita, no? Perché dopo, quando è stata finita, siamo restati lì, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio, è terminata il maggio, sono arrivati a Berlino e noi in quel frattempo, purtroppo non c'era più cucine, niente, si andava da contadini, si andava da qualche parte a aiutare qualcuno per ricevere qualche patata, qualche... Siamo partiti agli 8 e 10 di maggio e siamo arrivati qua al 1 giugno. È stata una passeggiata bella perché era sempre fame. Era la fame, non si aveva più niente, si vendeva tutto. Mi è restato solamente l'orologio di mio padre perché era un ricordo. E lo avevo sempre nascosto perché i russi si potevano grattare, gli gratteva insomma il contrabbando. E qui l'ho portato a casa, quando nel lungo percorso di questo mese quasi, siamo arrivati a Tarvisio. E lì mi sono inginocchiato sul binario là, passati il confine, ma mi sono inginocchiato sui binari dei treni di così e ho baciato quelli, come dir bacio che sono arrivato in Italia. Scusi signore, ma quando avete sentito i primi spari dei russi cosa avete pensato? Tre colonne di carri armati la notte che hanno fatto all'inizio dell'occupazione. Un rumore cupo, non si dormiva, eravamo dentro nel rifugio di Fortuna lì. E sto rumorio tutta la notte era così, che una colonna veniva verso di noi, due accerchiavano dall'altra parte. Abbiamo pensato che siccome i tedeschi non volevano che andassimo nelle mani dei russi, noi, perché allora pensavano male, allora hanno cercato di mandarne via dal lager, di mandarne via. E noi abbiamo rifiutato e siamo restati lì. Ma i spari che facevano fra mitragliatrici, fra quelle cose così, si tremava tutti, eh. Era la paura perché ci voleva poco. Beh, bombardavano, e dopo venivano avanti i tedeschi che fa ritirata, sparavano dall'altra parte. Insomma, avevamo passato tutta la notte, quella notte di così sì. E dopo fu per la mattina, fu per il giorno, via su quelle collinette che c'era per la neve, si vedeva dei personaggi che passavano via vestiti in bianco. Erano i primi soldati che arrivavano a piedi. I laboratori di Porto Beseno torneranno ancora nella prossima puntata. Stessa ora, stessa rete. Un saluto da Sara Maino e Stefano Uccia in regia. Avete ascoltato Paesaggi da ascoltare. Voci, suoni e storie dalle terre trentine. Un programma a cura di Stefano Uccia con la collaborazione di Sara Maino.